c'era mai, congelene lu, une une e c'è unene, une noa e c'è unene, une une e c'è une noa e c'è unene, e c'è unene. Yeah.